Il re della maschera d'oro, Marcel Schwab, 1892. Benvenuti ai racconti di quasi mezzanotte, Danilo. Il re della maschera d'oro si alzò dal trono nero dove era rimasto seduto per ore e domandò la causa del tumulto, perché le sentinelle delle porte avevano incrociato le picche e si sentiva risuonare il ferro. Attorno al braciere di bronzo si erano levati anche 50 sacerdoti a destra e 50 giullari a sinistra, mentre le donne, disposte in semicerchio davanti al re, agitavano le mani. La fiamma rosa e porpora che brillava attraverso la grata di bronzo del braciere illuminava le maschere dei volti. A imitazione del re ossuto, donne, giullari e sacerdoti indossavano immutabili visi d'argento, di ferro, di rame, di legno e di stoffa. Le maschere dei giullari si aprivano in una risata, mentre quelle dei sacerdoti erano nere di preoccupazione. 50 volti euforici sbocciavano a sinistra e a destra 50 facce tristi si accigliavano. Le stoffe chiare, tese sul capo delle donne, imitavano volti eternamente aggraziati, animati da un sorriso artificiale. La maschera d'oro del re era maestosa, nobile e genuinamente regale. Egli se ne stava silenzioso, simile in questo silenzio alla stirpe di re di cui era l'ultimo. In passato la città era stata governata da principi che portavano il volto scoperto. lo potresti giudicare proprio tu, il cui volto si raggrinzisce ad ogni parola, l'immutabile bellezza della mia donna. Né la tua né la loro potrei giudicare, disse il mendicante sottovoce, perché io, cieco, non posso saperne nulla, e tu stesso non conosci nulla, né degli altri, né della tua persona. Ma io sono superiore a te in questo, so di non sapere nulla, e posso fare congetture. Forse quelli che ti sembrano giullari piangono sotto la maschera, ed è possibile che quelli che ti sembrano sacerdoti abbiano il loro vero volto contorto dalla gioia di ingannarti, e ignori se le guance delle tue donne non si colorino dei toni della cenere sotto la seta. E tu stesso, re dalla maschera d'oro, chi può sapere se il tuo vero aspetto non sia orribile nonostante i tuoi ornamenti? Allora, colui che tra i giullari aveva la bocca spalancata dall'allegria, emise un sogghigno simile a un singhiozzo, e colui che tra i sacerdoti aveva la fronte più accigliata, recitò una supplica simile a un riso nervoso, e tutte le maschere delle donne rabbrividirono. E il re, dalla maschera d'oro, fece un segno. Le guardie afferrarono per le spalle l'uomo dal volto nudo e lo gettarono fuori dalla grande porta della sala. Master. La notte passò e il sonno del re fu inquieto. Al mattino vagò per il palazzo perché un desiderio perverso gli si era insinuato nel cuore, ma non trovò quello che cercava né nelle camere da letto né nella sala delle feste dagli alti soffitti né nelle stanze dorate dipinte. In tutta l'estensione della residenza reale non c'era un solo specchio. Così avevano stabilito da lungo tempo l'ordine degli oracoli e l'ordinanza dei sacerdoti. Il re, dall'alto del suo trono nero, non si dilettò dei giullari, non ascoltò i sacerdoti e non guardò le sue donne, poiché pensava solo al proprio volto. Quando il sole al tramonto proiettò sulle finestre del palazzo la luce dei suoi sanguigni metalli, il re lasciò la sala del braciere, scostò le guardie, attraversò rapidamente i 7 cortili concentrici chiusi da 7 mura scintillanti e uscì con fare oscuro nella campagna. Stava tremando e pareva incuriosito. Sapeva che avrebbe incontrato altri volti e forse anche il proprio. Nel profondo della sua anima voleva essere sicuro della propria bellezza. Perché quel miserabile mendicante gli aveva insinuato quel dubbio nel petto? Il re della maschera d'oro giunse ai boschi che circondavano la sponda di un fiume. Gli alberi erano rivestiti di scorze lisce e scintillanti. C'erano fusti di un bianco brillante. Il re spezzò qualche ramoscello. Alcuni perdevano dalla spaccatura un po' di linfa schiumosa e l'interno restava chiazzato di macchie scure. Altri rivelavano muffe segrete e crepe nere. La terra era bruna e umida sotto un tappeto multicolore fatto di erbe e piccoli fiori. Il re rovesciò col piede un grande blocco venato di blu, le cui pagliuzze brillavano sotto gli ultimi raggi, e un rospo in molle sacca fuggì dal nascondiglio di fango con un sobbalzo spaurito. Al margine del bosco, sulla corona della riva, emergendo dagli alberi, il re si fermò, incantato. Una fanciulla era seduta sull'erba. Il re notò i suoi capelli avvolti in un nodo alto, la nuca graziosamente curva, i reni svelti che facevano ondeggiare il suo corpo fino alle spalle, perché rigirava tra due dita della mano sinistra un fuso molto gonfio e la punta di una spessa conocchia le si assottigliava lungo la guancia. Si alzò in piedi interdetta, mostrò il viso e nella confusione afferrò tra le labbra le ciocche del filo che stava filando. Le sue guance sembravano attraversate da un taglio dalla sfumatura pallida. Quando il re vide quegli agitati occhi neri, quelle delicate narici palpitanti, le labbra tremanti e quella rotondità del mento che scendeva fino alla gola carezzata di luce rosea, si slanciò pieno di trasporto verso la ragazza e la afferrò violentemente tra le mani. «Vorrei», disse, «per la prima volta adorare un volto nudo. Vorrei sfilarmi questa maschera d'oro, poiché mi separa dall'aria che bacia la tua pelle, e andremo insieme, pieni di meraviglia, a specchiarci nel fiume». La ragazza toccò con sorpresa, con la punta delle dita, le lame metalliche della maschera del re. Egli, nel frattempo, si liberò con impazienza dei ganci d'oro e la maschera rotolò nell'erba e la ragazza, coprendosi gli occhi con le mani, emise un grido di orrore. Un attimo dopo fuggiva tra le ombre del bosco, stringendosi al petto la conocchia avvolta nella canapa. Il grido della ragazza risuonò dolorosamente nel cuore del re. Egli corse verso la riva, si sporse verso l'acqua del fiume e dalle sue stesse labbra uscì un gemito rauco. Poco prima che il sole scomparisse dietro le colline brune e turchine dell'orizzonte, era riuscito a scorgere un volto biancastro, tumefatto, coperto di squame, la cui pelle era sollevata da orribili gonfiori, e capì immediatamente, rimembrando quanto letto nei libri, di essere lebbroso. La luna, come una terrea maschera gialla, si ergeva sopra gli alberi. Si sentiva ogni tanto un fremito di ali bagnate tra le canne. Una scia nebbiosa galleggiava lungo il corso del fiume. Il riflesso dell'acqua si prolungava a grande distanza e si perdeva nella profondità bluastra. Degli uccelli dal capo scarlatto increspavano la corrente in cerchi che lentamente andavano dissipandosi. E il re, in piedi, teneva le braccia lontane dal corpo, come se avesse disgusto a toccarsi. Raccolse la maschera e se la mise sul volto. Camminando come in un sogno, si diresse verso il palazzo. Batté il gong alla porta della prima muraglia e le guardie uscirono in tumulto con le torce. Illuminarono il suo volto d'oro. Il sovrano aveva il cuore pieno d'angoscia al pensiero che le guardie potessero riconoscere sul metallo delle squame bianche. E attraversò il cortile bagnato dalla luce della luna. E sette volte il suo cuore fu stretto dalla stessa angoscia alle sette porte, ove le sentinelle levarono le torce rosse sulla sua maschera d'oro. E intanto il dolore cresceva in lui assieme alla rabbia, come una pianta nera attorno a cui si avvolge una pianta fulva. E i frutti scuri agitati del dolore e della rabbia arrivarono alle sue labbra, ed egli ne gustò il succo amaro. Entrò nel palazzo, e la guardia alla sua sinistra girò sulla punta di un piede, con l'altra gamba tesa, coronandosi con il cerchio luminoso della sua sciabola, e la guardia alla sua destra girò sulla punta dell'altro piede, tenendo la gamba opposta e vorticando rapido in una piramide abbagliante. Il re non ricordò nemmeno che si trattava delle cerimonie notturne, ma passò tremando, immaginando che i soldati desiderassero tagliare o spaccare la sua brutta testa gonfia. Le sale del palazzo erano deserte. Qualche torcia solitaria bruciava bassa nel suo anello, qualcun'altra si era spenta e piangeva fredde lacrime di resina. Il re attraversò le sale delle feste, dove i cuscini ricamati di tulipani rossi e crisantemi gialli erano ancora sparsi fra dondoli d'avorio e cupi seggi d'ebano ravvivati da stelle d'oro. Dei veli inamidati e decorati con uccelli dalle zampe variopinte e il becco d'argento pendevano dal soffitto, dove si incassavano musi di animali in legno colorato. C'erano lampade di bronzo verdastro in un sol pezzo e puntellate da sorprendenti fori laccati di rosso, dove uno stoppino di seta cruda passava nel centro delle rondelle sovrapposte di un nero oleoso. C'erano lunghe poltrone basse arcuate dove non ci si poteva adagiare senza che i reni si sollevassero come sostenuti da mani. C'erano vasi di metalli fusi e quasi trasparenti e che risuonavano in modo acuto sotto il dito come se fossero lacerati. Alla fine della sala il re afferrò una torcia di bronzo che faceva guizzare le sue lingue rosse nell'oscurità. Le goccioline fiammeggianti di resina caddero, fremendo, sulle sue maniche di seta. Ma il re non le notò. Si diresse verso una galleria alta, buia, dove la resina lasciò una scia profumata. Lì, sulle pareti tagliate da diagonali incrociate, si vedevano ritratti, lucenti e misteriosi, perché i dipinti erano mascherati e sovrastati da tiare. Solo il ritratto più antico, separato dagli altri, rappresentava un giovane pallido, con gli occhi dilatati dallo spavento, la parte inferiore del volto nascosta dagli ornamenti reali. Il re si fermò davanti a questo ritratto e lo illuminò, alzando la torcia. Poi gemette e disse: «O primo della mia stirpe, fratello mio, quanto siamo degni di commiserazione!» E baciò il ritratto sugli occhi. E davanti la seconda figura dipinta, che era mascherata, il re si fermò e lacerò la tela della maschera dicendo: «Questo è ciò che andava fatto, padre mio, secondo della mia stirpe». E così squarciò le maschere di tutti gli altri re della sua stirpe, fino ad arrivare a lui. Sotto le maschere strappate si vide la cupa nudità della muraglia. We'll be right back. Poi arrivò nella sala delle feste, dove le tavole scintillanti erano ancora apparecchiate. Portò la torcia sopra la testa e righe purpuree si precipitarono verso gli angoli. Al centro delle tavole c'era un trono con i piedi di leone, sul quale pendeva una pelliccia maculata. Agli angoli sembravano accumularsi oggetti di vetro ed argento lucido e coperchi forati d'oro. Alcuni flaconi brillavano di bagliori violetti, altri erano placcati all'interno con sottili lamine traslucide di metalli preziosi. Come una terribile indicazione di sangue, un bagliore della torcia fece scintillare una coppa oblunga tagliata in granato, dove i coppieri erano soliti versare il vino dei re. E la luce carezzò di vermiglio anche un cesto d'argento intrecciato, dove erano riposte pagnotte rotonde dalla crosta integra. E il re attraversò le sale delle feste, voltando la testa. Nero busto, o di toccare il vino rosso sangue con le loro labbra bianche. Dov'è colui che, conoscendo il suo male, proibì gli specchi nella sua dimora? È tra quelli di cui ho strappato i falsi volti, e ho mangiato del pane dalla sua cesta, e ho bevuto vino dalla sua coppa. Attraverso una stretta galleria pavimentata di mosaico si giungeva alle camere da letto, e il re vi si introdusse, portando davanti a sé la torcia sanguinante. Una guardia avanzò, piena di apprensione, e la sua cintura di larghi anelli scintillò sopra la tunica bianca. Poi riconobbe il re dalla maschera d'oro e si prostrò al suo cospetto. Da una lampada di bronzo sospesa al centro, una luce pallida illuminava una doppia fila di letti da parata. Le coperte di seta erano intrecciate con filamenti di vecchie tinte. Un condotto d'onice lasciava colare gocce monotone in un bacile di pietra levigata. Per primo il re considerò l'appartamento dei sacerdoti. Le maschere severe degli uomini coricati erano simili durante il sonno e l'immobilità. E nell'appartamento dei giullari le loro bocche dormienti avevano proprio la stessa larghezza. E la bellezza immutabile dei visi femminili non si era alterata durante il riposo. Avevano le braccia incrociate sul petto o una mano sotto la testa e non sembravano preoccuparsi del loro sorriso, altrettanto grazioso quando lo ignoravano. In fondo, all'ultima stanza, c'era un letto di bronzo con altorilievi di donne ricurve e fiori giganti. I cuscini gialli custodivano l'impronta di un corpo irrequieto. Là avrebbe dovuto riposare, a quell'ora della notte, il re dalla maschera d'oro. Là i suoi antenati avevano dormito per anni e il re distolse lo sguardo dal letto. «Sono riusciti a dormire», disse, con quel segreto sul volto, «e il sonno è venuto a baciarli in fronte, come me, e non hanno scosso la maschera davanti al viso nero del sonno per spaventarlo per sempre». E io ho sfiorato questo bronzo, ho toccato i cuscini dove una volta si poggiavano le membra di quei vigliacchi. Il re passò nella stanza del braciere, dove la fiamma rosa e porpora danzava ancora e gettava le sue braccia rapide sui muri. Batté il grande gong di rame, con un colpo così forte che tutte le cose metalliche intorno vibrarono. Le guardie, spaventate, si precipitarono vestite solo per metà, con le loro asce e le sfere d'acciaio irte di punte, e apparvero i sacerdoti addormentati, con le loro vesti che strisciavano per terra, e i giullari dimenticarono tutti i sacramentali balzi d'ingresso, e agli angoli, dalle porte, le donne mostrarono i loro volti sorridenti. Il re salì sul trono nero e ordinò: «Ho suonato il gong al fine di riunirvi per una cosa importante. Il mendicante ha detto la verità. Mi state ingannando tutti qui, gettate le maschere». Si sentirono rabbrividire le membra e le vesti e le armi. Poi, lentamente, quelli che erano lì si decisero e scoprirono il volto. Allora il re dalla maschera d'oro si voltò verso i sacerdoti e guardò i 50 volti ridenti dagli occhi piccoli incollati dalla sonnolenza e, volgendosi verso i giullari, esaminò 50 volti pallidi scavati dalla tristezza con gli occhi rossi per l'insonnia e, chinandosi verso il semicerchio delle sue donne seduto, sogghignò perché i volti erano pieni di noia, di bruttezza e patinati di stupidità. «Così», disse il re, «mi avete ingannato per tutti questi anni, voi stessi e su tutti gli altri. Coloro che credevo seri e che mi davano consigli su cose divine umane sono come otri gonfi di vento divino. E coloro di cui mi divertiva la continua letizia erano tristi fino in fondo al cuore. E il vostro sorriso di sfinge, o donne, non significava proprio nulla. Miserabili voi siete, ma io sono il più miserabile tra voi. Sono re e il mio volto sembra regale. Ma in realtà, guardate, L'uomo più infelice del mio regno non ha nulla da invidiarmi. E il re si sfilò la maschera d'oro. E un grido si levò dalla gola di chi lo vedeva, poiché la fiamma rosa del braciere illuminava le sue bianche scaglie di lebbroso. «Sono loro che mi hanno ingannato, i miei padri, intendo», gridò il re, «che erano lebbrosi come me e mi hanno trasmesso la malattia assieme all'eredità regale. Mi hanno tratto in inganno e vi hanno costretto a mentire». Attraverso la grande vetrata della sala, spalancata verso il cielo, la luna cadente mostrò la sua maschera gialla. Come questa luna, che rivolge verso di noi sempre la stessa faccia dorata, ha forse un altro volto scuro e crudele, disse il re. Così la mia regalità è stata tesa sopra la mia lebbra. Ma non vedrò più l'apparenza di questo mondo e volgerò il mio sguardo verso cose oscure. Qui, davanti a voi, mi punisco della mia lebbra e della mia menzogna e la mia stirpe con me. Sollevò la sua maschera d'oro e in piedi sul trono, tra agitazione e suppliche, si conficcò negli occhi i ganci laterali della maschera, con un grido di angoscia. Per l'ultima volta una luce rossa sbocciò davanti a lui e un fiotto di sangue gli colò sul viso, sulle mani, sui cupi gradini del trono. Si strappò i vestiti, barcollò giù per i gradini e, scostando a tentoni le guardie mute d'orrore, fuggì solo nella notte. Ora il re, lebbroso e cieco, vagava nella notte. Urtò contro le sette muraglie concentriche dei suoi sette cortili e contro gli alberi secolari della residenza reale e si fece delle piaghe sulle mani toccando le spine delle siepi. Quando sentì risuonare i suoi passi, capì di essere sulla strada maestra. Per ore e ore camminò, senza neppure avvertire il bisogno di nutrirsi. Sapeva di essere illuminato dal sole per il calore che gli velava il volto e riconosceva la notte dal freddo dell'oscurità. Il sangue colato dai suoi occhi strappati gli copriva la pelle con una crosta nerastra e secca, e quando ebbe camminato a lungo, il re cieco si sentì stanco e si sedette al margine della strada. Viveva adesso in un mondo oscuro e i suoi sguardi erano rivolti al suo sé interiore. Mentre errava in questa tetra piana di pensieri, udì un suono di campanelli. Subito immaginò il ritorno di un gregge di pecore dalla folta lana, guidato da montoni la cui grassa coda pendeva fino a terra, e tese le mani per toccare la lana bianca, non provando alcuna vergogna degli animali. Ma le sue mani incontrarono altre tenere mani, e una voce soave gli disse: «Povero cieco, cosa vuoi?» Il re riconobbe la voce incantevole di una donna. «Non devi toccarmi», gridò il re, «ma dove sono le tue pecore?» La ragazza, che gli stava di fronte, era lebbrosa e per questo portava dei campanelli appesi alle vesti, ma non osò confessarlo e rispose mentendo: «Sono rimaste un po' indietro». «Dove stai andando?» chiese il re cieco. «Rientro nella città dei miserabili», rispose lei. Allora il re si ricordò che c'era, in un angolo remoto del suo regno, un luogo d'asilo dove si rifugiavano tutti quelli che erano stati respinti dalla vita a causa delle loro malattie o dei loro crimini. Sopravvivevano in capanne che si erano costruiti da soli o rinchiusi in tane scavate nel terreno, e la loro solitudine era estrema. Il re decise di recarsi in questa città. «Portami là», disse. La ragazza lo afferrò per il lembo della manica. «Lascia che ti lavi il viso», disse lei, «poiché è forse da una settimana che il sangue ti è colato sulle guance». E il re tremò, pensando che avrebbe avuto orrore della sua lebbra e l'avrebbe abbandonato. Ma lei versò dell'acqua dalla sua fiaschetta e lavò il viso del re. Poi disse: «Povero, quanto devi aver sofferto quando ti hanno strappato gli occhi». «Quanto ho sofferto prima senza saperlo», disse il re. «Ma andiamo, arriveremo per questa sera nella città dei miserabili». «Lo spero», disse la ragazza, e gli indicava il cammino, parlandogli con tenerezza. Nel frattempo, il re cieco sentì di nuovo i campanelli e, voltandosi, ebbe il desiderio di accarezzare le pecore. La ragazza temeva che scoprisse la sua malattia. Ora il re era sfinito dalla stanchezza e dalla fame. La giovane prese un pezzo di pane dalla sacca e gli offrì la sua fiaschetta, ma egli rifiutò, temendo di contaminare il pane e l'acqua. Poi domandò: «Riesci a vedere la città dei miserabili?» «Non ancora», rispose la giovane fanciulla, e continuarono a camminare. Oh, shit. Ella colse per lui il loto azzurro che egli masticò per rinfrescarsi la bocca. Il sole si inclinava verso le grandi risaie che ondeggiavano all'orizzonte. «Ecco l'odore del riposo che avanza verso di me», disse il cieco. «Ci stiamo avvicinando alla città dei miserabili». «Non ancora», rispose la giovane fanciulla. E mentre il disco insanguinato del sole squarciava ancora il cielo violetto, il re cedette alla stanchezza e alla fame. Alla fine della strada, una sottile colonna di fumo tremava tra i tetti erbosi. La nebbia delle paludi fluttuava intorno. «Ecco la città», disse la ragazza, «la vedo». «Entrerò da solo», disse il re cieco. «Avevo solo un desiderio. Avrei voluto posare le mie labbra sulle tue per rinfrescarmi al tuo viso, che deve essere così bello. Ma ti avrei contaminato dal momento che sono lebbroso». E il re venne meno nella morte. La ragazza scoppiò in singhiozzi, vedendo che il volto del re cieco era puro e limpido e sapendo bene che lei stessa aveva temuto di contaminarlo. Dalla città dei miserabili s'avanzò un vecchio mendicante dalla barba pungente, i cui occhi incerti tremavano. «Perché stai piangendo?» chiese. E la ragazza gli disse che il re cieco era morto, dopo che gli avevano strappato gli occhi, pensando di essere lebbroso. «E non ha voluto darmi il bacio di pace», disse, «per non contaminarmi, ma sono io la vera lebbrosa in faccia al cielo». E il vecchio mendicante le rispose: «Senza dubbio il sangue del suo cuore, che gli era sgorgato attraverso gli occhi, lo aveva guarito dalla malattia, ed è morto pensando di indossare una maschera disgraziata. Eppure, a quest'ora, egli ha deposto tutte le maschere, d'oro, di lebbra e di carne».